Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. La redazione era chiusa. Ridiscesi le scale di soppiatto come un ladro e mi fermai sconcertato davanti al portone. Che fare? Mi appoggiai al muro e, sforzandomi di pensare, fissai lo sguardo sul marciapiede. Ai miei piedi c'era una spilla da paglia. E come luccicava. Mi chinai a prenderla. E se avessi staccato i bottoni della giacca, quanto avrei potuto ricavare? Ma forse era inutile. I bottoni sono bottoni, ma io li osservai da tutti i lati e mi sembrarono quasi nuovi. Era dunque una bella idea. Potevo staccarli col temperino e impegnarli. La speranza di poter vendere quei 5 bottoni mi rianimò e mi fece esclamare: sta a vedere che le cose si aggiustano. Com'ero contento. Immediatamente incominciai a staccare un bottone dopo l'altro e intanto dicevo tra me: ecco, vedete, sono diventato povero, mi trovo in imbarazzo momentaneamente. Consumati, dite? La parola vi è sfuggita. Vorrei vedere uno che abbia cura dei bottoni come me. Tengo sempre la giacca aperta, vi assicuro. Ormai è una mia abitudine, una mia particolarità. Ma non li volete proprio? Vedete, io chiedo almeno 10 centesimi per questi bottoni. Dio mio, chi ha detto che dobbiate prenderli voi? State zitto, lasciatemi stare. Va bene, andate pure a chiamare la polizia. Aspetterò qui finché trovate una guardia. Non voglio mica derubarvi. State pure tranquillo. Buongiorno, dunque. E se lo volete sapere, io mi chiamo Tangen. Sono stato fuori a lungo. Qualcuno salì le scale. Ritorno alla realtà. È Forbici, che mentre mi metto rapidamente i bottoni in tasca, passa oltre senza neanche rispondere al mio saluto e si guarda le unghie con molta attenzione. Lo fermo e gli domando se c'è il redattore capo. Non c'è. Voi mentite! Esclamo con una sfacciataggine che stupisce anche me. Continuo. Devo parlargli, si tratta di cose gravi, ho notizie importanti dal ministero. E non potete dirle a me? A voi, esclamai guardandolo dall'alto in basso. Ciò fece effetto. Egli mi accompagnò su per le scale e aprì la porta. Mi sentivo il cuore in gola e, stringendo i denti con forza per farmi coraggio, bussai ed entrai nello studio del redattore capo. Buongiorno. «Che c'è di nuovo?» disse cortesemente. «Prego, accomodatevi!» Avrei preferito che mi buttasse fuori. Sentendo che mi veniva da piangere, dissi: «Vi chiedo scusa, ma sedetevi!» ripeté. Mi sedetti e gli spiegai che avevo portato un altro articolo e mi sarebbe piaciuto che fosse accolto nel giornale. Avevo lavorato intensamente e mi era costato molta fatica. «Va bene, lo leggerò», disse il redattore prendendo l'articolo. «Certo, quando scrivete impegnate tutte le vostre forze, ma siete troppo irruente. Avete il sangue troppo bollente, meno bollori sarebbe meglio, c'è sempre troppa febbre. Tuttavia lo leggerò volentieri». E riprese a scrivere. Ecco dunque, potevo arrischiare di chiedergli una corona. Potevo forse spiegargli perché c'era sempre troppa febbre. In tal caso mi avrebbe certamente aiutato. Non era la prima volta. Mi alzai. L'ultima volta che ero stato da lui, si era lamentato perché era a corto di denaro e aveva persino mandato il cassiere a raggranellare qualche cosa per me. Così avrebbe forse fatto anche questa volta. Ma no, no, assolutamente no. Non vedevo che era occupato. Desiderate altro? «No», dissi con fermezza. «Quando posso ripassare?» «Ah, quando capita da queste parti», rispose. «Diciamo fra un paio di giorni». Non riuscivo a fare la mia richiesta. La cortesia di quell'uomo mi pareva senza limiti, sicché avevo il sacrosanto dovere di tenerne conto, piuttosto morire di fame. E uscii. E neanche quando mi trovai fuori senza sapere dove battere il capo, neanche allora mi rammaricai di aver lasciato la redazione senza una corona. Levai di tasca il secondo trucciolo e me lo ficcai in bocca. L'effetto fu buono. Perché non ci avevo pensato prima? Vergogna, dissi a me stesso. Saresti forse stato capace di chiedere a quell'uomo una corona e di metterlo ancora in imbarazzo. E mi infuriai sempre più contro me stesso per la mia spudoratezza. Non ho mai visto una grettezza simile. Gli piombi in casa e gli cavi quasi gli occhi perché ti occorre una corona, cane miserabile. Via, adè, fila, fila, più svelto. Lazzarone, ti insegnerò io. E mi misi a correre per punirmi. Passai di corsa da una strada all'altra, imprecando contro di me, insultandomi quando cercavo di fermarmi. Così arrivai nella pile strede. Quando infine mi fermai, quasi piangendo di rabbia perché non potevo più correre, tremavo tutto e mi abbandonai su uno scalino. «No, signore!» esclamai. E per torturarmi ancora mi alzai di nuovo e mi costrinsi a stare in piedi ridendo di me stesso e deliziandomi alla vista della mia fatica. Infine, dopo alcuni minuti, feci un cenno del capo e mi diedi il permesso di sedermi. Ma scelsi un punto più scomodo della scala. Com'era bello riposare. Mi asciugai il sudore e respirai lentamente e profondamente. Quanto avevo corso. Ma non ero pentito. L'avevo meritato. Perché mi era venuto in mente di chiedere una corona a prestito? Ecco ora le conseguenze. Mi fece un discorso calmo, con molte raccomandazioni, come avrebbe parlato una madre. Fui sempre più commovente finché, stanco e spossato, incominciai a piangere. Era un pianto tranquillo, fervido, un singhiozzo interiore, senza lagrime. Stetti così un quarto d'ora o più. La gente andava e veniva e nessuno mi dava noia. I bambini giocavano qua e là. Un uccello cantava su un albero. Una guardia mi si avvicinò e domandò: «Perché state seduto qui?» «Perché sto qui?» «Perché mi fa piacere. Vi osservo da mezz'ora. Siete stato qui per mezz'ora?» «Sì, all'incirca», risposi. «Desiderate altro?» Mi alzai e mi allontanai indignatissimo. In mezzo alla piazza mi fermai e guardai indietro. «Perché mi fa piacere?» Era una risposta da dare. «Perché ero stanco», avrei dovuto rispondere, e con voce piagnucolosa: «Sono proprio un imbecille, non imparerò mai a fingere, perché ero stanco!» E avrei dovuto sospirare come un cavallo. Vicino alla caserma dei pompieri mi fermai di nuovo. Mi era venuta un'altra idea. Schioccai le dita e mi misi a ridere. La gente che passava mi guardava con stupore. «Ecco, adesso vado dal pastore Levison. Per Dio, è questo che devo fare. Provare non mi costa niente. Che cosa ho da perdere? E con questo tempo splendido!» Entrai nella libreria di Pasca, cercai nella guida l'indirizzo del pastore Levison e mi avviai. Coraggio ora, non più sciocchezze. Con la coscienza, scempiaggini. Sono troppo povero per occuparmi della coscienza. Sono affamato, sì signore, affamato. Si tratta dunque di una cosa importante. Ma bisogna piegare il capo e trovare il tono giusto. Perché no? Allora è inutile andare avanti. Ricordati. Come? Non sai che santo votarti? Combatti di notte come un matto con le potenze delle tenebre e coi mostri silenziosi. Soffri la fame e la sete. Vorresti vino e latte e non ottieni niente. Sei già arrivato a questo punto. Ecco che non hai neanche una goccia d'olio nella lucerna. Ma credi nella grazia celeste e, se Dio vuole, non hai perduto la fede. Dunque non hai che d'aggiungere le mani e assumere l'aspetto di un satanasso che abbia fede nella grazia del cielo. E in quanto a Mammona, ne hai naturalmente ribrezzo in qualunque forma si presenti. Una cosa diversa sarebbe un libro di preghiere, un ricordo che potrà valere un paio di corone. Davanti alla porta del pastore mi fermai e lessi: riceve dalle 12 alle 4. Ora non fare sciocchezze, ora bisogna fare sul serio. Abbassa la testa, da bravo, ancora un poco, e tirai il campanello. Vorrei parlare col signor pastore, dissi alla ragazza, ma non fui capace di pronunciare il nome di Dio. È uscito, rispose. Uscito. Uscito, il mio piano andava a rotoli e non sapevo come cavarmela. Avevo fatto tutta quella strada per niente. Si tratta di una cosa importante, domandò la giovane. No, no, no, risposi, nulla di importante. Visto il bel tempo, mi è venuta l'idea di venire a trovare il signor pastore. Stavamo uno di fronte all'altro. Io spinsi il petto in fuori per farle notare la spilla che mi chiudeva la giacca. Tentai di pregarla con gli occhi e di farle capire perché ero venuto, ma la poveretta non capì. Che tempo magnifico! Potrei parlare con la signora. Sì, ma ha l'artrite, è coricata sul divano e non può muoversi. Desidera che riferisca qualche cosa? No, non importava. Di quando in quando mi concedevo simili passeggiate per fare un po' di moto. Dopo mangiato fa bene alla salute. Visto che la conversazione non approdava a nulla, presi la via del ritorno. Mi pareva di avere le vertigini. Per poco non svenni. Riceve dalle 12 alle 4. Ero arrivato un'ora troppo tardi. Il momento della grazia era passato. Nella piazza del mercato mi sedetti su una delle panchine presso la chiesa. Il mio orizzonte cominciava a farsi buio davvero. Ero troppo stanco per piangere. Stavo là, estenuato, come impietrito, incapace di pensare. Mi sentivo il petto in fiamme. Anche il trucciolo diventava inutile. Avevo le mascelle stanche. A che giovava quella sterile fatica? Perciò le lasciai in pace e mi arresi. Oltre a ciò, mi aveva fatto male una buccia d'arancia che avevo raccolto per la strada. Ero ammalato. Le vene dei polsi erano tutte gonfie e azzurre. Ma che cosa stavo aspettando? Ero andato in giro tutto il santo giorno sperando di trovare una corona per poter prolungare di qualche ora la mia vita. In fin dei conti, non era la stessa cosa se ciò che doveva avvenire comunque avveniva un giorno prima o dopo. Se fossi stato un uomo ragionevole, mi sarei chiuso in casa da un pezzo e mi sarei arreso. In quei momenti avevo la mente perfettamente limpida. Capivo che bisognava morire. Era l'autunno, ogni cosa era già immersa nel letargo invernale. Avevo tentato tutti i mezzi, avevo sfruttato tutte le risorse. Accarezzavo con commozione questo pensiero e ripudiavo ogni speranza di salvezza, bisbigliando tra me: non vedi, sciocco, che stai già morendo? Si tratta di scrivere ancora un paio di lettere, di prepararmi al viaggio, di tenermi pronto. Volevo lavarmi ancora una volta da capo a piedi e rifare il letto per benino. Avrei posato la testa su quel paio di fogli bianchi, la cosa più pulita che mi fosse rimasta. E con la coperta verde potevo... La coperta verde. In un baleno mi ridestai, il sangue mi montò alla testa e il cuore incominciò a pulsare con violenza. Mi alzai e mi misi a camminare. Ero rinato alla vita e andavo ripetendomi continuamente: la coperta verde, la coperta verde, la coperta verde. Affrettai il passo come se stessi inseguendo qualcuno e mi ritrovai presto nella mia officina di stagnino. Senza esitare mi avvicinai al letto e arrotolai la coperta di Hans Pauli. Sarebbe stato davvero curioso se quella mia buona idea non mi avesse salvato. Ora mi sentivo davvero infinitamente nettamente superiore agli scrupoli ingenui che mi si destavano dentro. Posizioni superate. Non ero un fiore di virtù né uno stinco di santo. Ero ancora capace di ragionare. Presi la coperta e andai a stenesgate al numero 5. Bussai e mi trovai in un salone sconosciuto. Sopra la mia testa il campanello faceva un fracasso d'inferno. Da una stanza vicina uscì un uomo che masticava energicamente e si accostò al banco. «Per favore, prestatemi mezza corona per questi occhiali», dissi. «Tra un paio di giorni verrò certamente a riscattarli, senza fallo». «Come? No, no, grazie, sono occhiali d'acciaio. Già, no, no, non posso prestare niente, capisco. A dire il vero, la mia non voleva essere una proposta seria. Ma qui ho una coperta. Adesso non ne ho bisogno e ho pensato che forse potreste prenderla. Ho il magazzino strapieno di lenzuola e di coperte, mi dispiace». E quando l'ebbi spiegata, vi gettò soltanto uno sguardo e soggiunse: «No, mi rincresce, non so che farne. Vedete, ho fatto apposta a mostrarvi prima il lato brutto, osservai. Dall'altra parte è molto migliore. Può anche darsi, ma non mi serve, non la voglio. E non troverete nessuno che vi dia neanche 10 centesimi. Capisco anch'io che non ha nessun valore, spiegai, ma pensavo che si potesse forse metterla all'asta insieme con un'altra coperta vecchia. Già, ma è inutile. 25 centesimi, proposi. No, non la prende in nessun caso, non la voglio nel magazzino, neanche se me la regalate. Capito?» Mi rimisi dunque la coperta sotto il braccio e ritornai a casa. Feci come se nulla fosse stato. Posai la coperta sul letto, la stesi e la lisciai alla meglio, cercando di cancellare ogni traccia della mia ultima impresa. Certamente non avevo fatto uso della ragione nel momento in cui mi ero deciso a quel meschino espediente. Quanto più ci pensavo, tanto meno capivo. Dovevo aver agito in un attacco di debolezza. Qualche cedimento dentro di me mi aveva preso alla sprovvista. E già prima di cadere nella trappola avevo intuito che avrei fatto fiasco. Perciò avevo incominciato dagli occhiali. Ero lieto di non essere riuscito a consumare il delitto. Avrei in tal modo contaminato le ultime ore di vita che mi rimanevano. E ritornai in città. Presso la chiesa del Redentore, sedetti di nuovo su una panchina, mi appisolai un po' col mento sul petto, affranto da quell'ultimo sforzo, malato ed estenuato dalla fame. E il tempo scorreva. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.